Hadith numero 11 da Abu Muhammad al-Hasan bin Ali Abu Talib, nipote dell'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e la ben gloria, e di lui fiore profumato, che Allah si compiaccia di ambedue, disse: ho imparato dall'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e la ben gloria, smetti di fare ciò che ti provoca dubbio per fare ciò che non ti provoca dubbio. L'hanno riferito l'imam At-Tirmidhi e l'imam An-Nisa'i. At-Tirmidhi ha detto: tradizione buona e autentica, cioè Hasan e Sahih.